Un italiano vero. Le presentazioni le ho già fatte, benvenuti. Con la bottiglia in mano vuota, Francesco Nuti. Nell'hip hop sono nella cerchia dei poco conosciuti. Più che pensare l'aspetto, do contenuti. Mi scappa di mano la bottiglia, mille pezzi. Conto i resti come a poker, sottomessi. Non è un dissing, tradotto in versi. Prendete tutto con le pinze per capire i concetti. Io più mi guardo, più vi guardo e perdo la vista. Cercare di capire l'errore, come su vista. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E non è certo chi lo ammette che poi cresce in realtà. Chi dà senso a un film, chi dà senso alla vita. Chi fa senso alla vita, se muori dentro è finita. Io scrivo oggi quello che ho visto ieri di ferita. E forse togli il gusto e il senso della partita. Big J, buone nuove Freddy State. Big J, rotto in mille pezzi. Strofe nuove non le ho mai scritte prima. Non celebro il mio nome, l'ho fatto nel pezzo prima. Molta gente brancola nel buio, io ripudio. Sto bene solo nel mio habitat studio. Non credo al pezzo tormentone, tanto non mi riesce. Non parlo in rima filosofica, non mi esce. Dico mi metto a dieta e la cazzata esce. Faccio soldi come volo, solo un pirla ci riesce. E non ho mai letto niente di suo. Meglio che in questi casi ognuno faccia il suo. Un velo di incoerenza come me nessuno. Chi è senza peccato scagli, ho formato un muro. E la bottiglia perde pezzi e fa male. Sono emo, no. Mi potrebbe giovare. Non dico tutto per filo e per segno. Sono come i cani, quello che mi fai lo segno. Big J, buone nuove Freddy State. Big J, rotto in mille pezzi. Perché fai rap? Me l'hanno chiesto in tanti. Drogarsi al parco lo facevano già tanti. Ok, niente di personale, la vita è vostra. Ma non stressate, se ho la maglia con il nome in mostra. Se ho gli occhi rossi e il flash. Io fo tipo movida, ora la movida è scattarle al cesse. Rimembro la scuola media, rimpiango solo quella maggiorata che avevo di fianco. Compagni di banco carina, ragazzo fortunato. Gli altri li hanno castigate, io ci ho sempre parlato. E compagni, stendiamo veli pietosi, tamari affetti da traumi post passeggini difettosi. Qualcuno è cambiato, qualcuno no, forse manco io. Qualcuno si salva, grazie a Dio. Discorso banale, ma tutto può cambiare. Ma quando poi il sogno è finito ti devi svegliare. Big J, buone nuove Freddy State. Big J, rotto in mille pezzi.